È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Eccoci qui, prima punturina della serata, caro Parenzo, prima punturina dedicata al ministro Fornero, il ministro del lavoro Fornero. E c'è una vignetta questa mattina sulla prima pagina del manifesto, una vignetta, lo dico subito, alla Vauro, cioè una vignetta cattiva, una vignetta perfida, anzi una vignetta terribile se vogliamo, ma è una vignetta, è satira, caro ministro Fornero. Lei sa, ministro, che qui alla Zanzara la apprezziamo anche per alcuni suoi provvedimenti, chi più, chi meno, non abbiamo un pregiudizio nei suoi confronti né nei confronti del governo Monti. La vignetta è questa, c'è una signora, una sorta di prostituta, con la faccia della Fornero, la ministra squillo, Fiat Marchionne, Fornero, aspetto che il telefono squilli. La ministra squillo, la reazione della Fornero è stata... questa, secondo me, è esagerata, troppa importanza per una vignetta su un giornale. Oggi l'unica cosa che voglio dire è che trovo vergognosa la vignetta di Vauro sul manifesto, che denota il persistente maschilismo volgare e inaccettabile degli uomini, di certi uomini in questo paese nei confronti delle donne. Allora, altra punturina, punturina del giorno dedicata invece, poi ne parleremo. Dove ti trovi, Parenzo? Scusami, Eccomi, no, mi puoi sentire forte e chiaro, credo. No, ti sento male, dove ti trovi? Non mi fai a sentirmi male, sono con un telefono cordless. Sì, ma dove, appunto, dove ti trovi, scusa? A Roma. Sì, ma dove, dove, fisicamente, dove? Alla 7. Sento rumore per strada, dove sei? Perché sono affacciato alla finestra, vuoi che rientri? Sì, rientra che è meglio, si sente troppo rumore, grazie. Beh, però è live. Sì, live mio nonno. Live mio nonno che è deceduto anni fa, poveraccio, non posso nemmeno citarlo. Live mio nonno. No, vive, è una trasmissione che vive per la gente, tra la gente, sì, con la gente. Vabbè, punturina dedicata anche al signor Lombardo, il quale a giugno disse: mio figlio non si candida, il governatore della Sicilia pro tempore, poi ci sono le elezioni del 28 ottobre, dimissionato, dimissionario anzi. Signor Lombardo, invece adesso ci sono dei manifesti grossi come una casa, tappezzati da Toti Lombardo. A giugno disse, tanto ormai non è importante, vale la massima di Rotondi, comunque. Presidente, è vero che si candida suo figlio alle regionali? Una sciocchezza che è stata messa in giro per intimidire e per far preoccupare i candidati. Non, perché? È nei, non è nei progetti miei, ma soprattutto non è nei progetti di questo mio figlio. Non è nei progetti, Lombardo, ci sono già i manifesti! Ma magari non è il figlio, è un'omonimia. Ma che omonimia, è lui, è lui. Pisapia, anche la punturina, se la piglia con Grillo nel modo sbagliato. Dice, infatti, che lui si proclama onesto, eccetera, eccetera, vuole candidare incensurati, ma lui ha una condanna definitiva, la famosa condanna per l'incidente stradale, eccetera, eccetera. Punturina pure al signor Pisapia. L'onestà dovrebbe essere un presupposto. È un presupposto di chi si candida e di chi viene candidato. Qua mi viene una battuta. Beh, Grillo dice di candidare persone incensurate, questa è una bellissima scelta, però forse dovrebbe pensare che lui incensurato non è, visto che ha una condanna passata in giudicato, e quindi forse dovrebbe lasciare ad altri alcune decisioni che invece sono di demagogia. E poi l'intervento dell'avvocato Carlo Taormina ieri sera qui alla Zanzara in difesa del suo assistito fiorito. Taormina ne ha dette di tutti i colori nei confronti dei consiglieri regionali del Lazio. Io, parentesi, sto ancora aspettando il segretario del PDL Alfano che prende a calci nel culo il signor Fiorito, a calci nel culo, espellendolo dal PDL, semplicemente per il fatto di avere spostato del denaro dal conto del PDL al suo conto. Poi non mi interessa se l'ha inguattati, se ha fatto i vestiti, se ha fatto la... non mi interessa, per il semplice fatto di avere spostato quei denari dal conto del partito al suo conto, ai numerosi conti che possiede in Italia e all'estero, solo per questo andrebbe cacciato a calci nel sedere. Ma scusami, ma tempo fa tu parli dello stesso Angelino Alfano che lanciò il Partito degli Onesti? Lo stesso, esattamente. No, voglio lo stesso. Sapere, è lo stesso Alfano del Partito degli Onesti? È lo stesso, sì, è lo stesso. È lo stesso Alfano del Partito degli Onesti? È lo stesso Alfano che dice in un'intervista al giornale che a Milano la criminalità, la piccola criminalità, la microcriminalità è aumentata del 150% dalla Moratti a Pisapia. Cifre assolutamente false. 150%? 150%. Ecco cifre che oggi il quotidiano online Il Post certifica essere assolutamente inventate. Vabbè, ma questa era una parentesi, eh? Dovevamo ascoltare l'avvocato Taormina, il quale dice tutti usano i soldi, parlando del gruppo del PDL, per andare a puttane, dice proprio così, un porcile. Sentiamo. Il mitico Fiorito in sostanza è uguale a tutti gli altri consiglieri della Regione Lazio, né più né meno. Né più e né meno, anzi forse meno che più. Cioè, lei dice che tutti gli altri fanno la stessa cosa, utilizzano i soldi per comprarsi le macchine, per andare a puttane e quant'altro. Ma veramente sta dicendo? Ma è una porcilaia, avvocato. Vedrà, certo, è un porcile, certo. Ma avete dei dossier? Avete dei dossier in mano? Abbiamo tutto in mano e daremo tutto all'autorità giudiziaria. Abbiamo tutto in mano, abbiamo tutto in mano. Ieri poi scatenato anche a Quinta Colonna, in realtà meno scatenato a Quinta Colonna, se la piglia a un certo punto col vice sindaco di Vicenza, Alessandra Moretti, che dice anche lei è così, anche lei. Ma perché anche lei? Comunque, sentiamo. La responsabilità è di tutti, non c'è ombra di dubbio. Ci vuole solo la rivoluzione. Scusi, ognuno si assume le proprie responsabilità e mettere tutti sullo stesso calderone a me... Caro lei avvocato, sta, non lei mi sta bene. Calderone, io. No, lei forse che no, è stato onorevole, perché no, io sono un amministratore locale semplice. Quindi mi dispiace, le differenze vanno sottolineate. Noi cittadini italiani, sappiamo da sempre dei furti che vengono consumati dalla classe politica. Avvocato, e non abbiamo non fatto siamo niente. Tutti voi uguali. Come noi. Combatte come un leone, l'avvocato Taormina è tornato a combattere. Noi siamo molto contenti di questo, al di là di quello che dice, naturalmente giudicate voi. Storace versus Telese, hai paragonato la Polverini a Lusi, sei un mascalzone, se ne va. Sentiamo. Dove? Questa non l'ha presa, hai capito la Polverini? Capito? L'hai paragonato a Lusi e Penati. Io ho paragonato la politica che non si sa autoriformare, Francesco. Ci conosciamo. Noi abbiamo fatto una grande riforma, ieri, falla a leggere. Ma la riforma è che di fronte al messaggio che c'hai uno che è il perdono nella tua maggioranza. Non voglio parlare questo giorno. Beh, meno male. Volevate? Io quei mascalzoni non ci voglio parlare. Broglione. Storace dice a Telese mascalzone imbroglione. Ma dove è successo questo scontro? Ma non ti preoccupare, dove è successo? Non ti preoccupare, che ti frega? Anche perché oggi è uscito il primo numero di Pubblico. E vabbè, dopo avremo magari anche Telese al telefono. 800. E vabbè, 800 24 00 24, è con noi il sindaco di Padova, Flavio Zanonato, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Sindaco, come sta? Ecco. Bene, il benissimo. Sindaco della città di Parenzo, finalmente nostro il ospite. Grande sindaco di Parenzo. Vabbè, grande, lo dici tu perché sei un amico. Un conosci... saluto anche a David. Ciao David. Allora, io voglio dire una cosa. Vi state picchiando duro con il signor Giancarlo Galan, che è ministro, è stato ministro del governo Berlusconi, governatore della Regione Veneto. Lei lo ha definito un personaggio volgare e inutile. Poi ha anche fatto capire che sul suo patrimonio c'è qualche dubbio. Lui ieri era molto arrabbiato da noi. Poi le faccio ascoltare qualcosa, ma sicuramente avrà già... ascoltato. Perché ha messo in dubbio, come dire, le origini del patrimonio di Galan, sindaco Zanonato? No, bisogna partire dall'inizio. A Padova stiamo realizzando insieme al comune di Trieste una fusione della nostra azienda nel campo dei servizi con ERA. Sì. E il Galan ha detto che io lo faccio per procurarmi un posto di lavoro non appena non sarò più sindaco. Flavio vuole un posto di lavoro in ERA quando non sarà più sindaco. ancora, a parte il fatto che tecnicamente questa cosa non è possibile. Perché nei primi tre anni, eccetera, eccetera. Esattamente, nei primi tre anni. A parte questo fatto, ovviamente là non si può chiedere di conoscere le leggi. Perché è ignorante? È ignorantissimo. Sì. E a parte questo fatto, sì. Lui ragiona esattamente come ragiona per se stesso. E ho semplicemente riportato... Cioè anche lui è alla ricerca di un posto di lavoro, cioè farebbe... No, ho riportato un parere, non mi sarei sognato di tirarlo fuori perché sono una persona tranquilla, di Antonello Caporale che ha fatto lo screening delle proprietà di Galan, compresa la villa d'Anababbo, sì. Molto cattivo gusto, ma d'Anababbo che ha sui Colli Ugani, dicendo con il reddito di... Presidente della Regione non è giustificata, ma può essere che i soldi li abbia dati come Berlusconi l'ha dati a Lutri, li abbia dati a lui. No, però scusi, non lei... ho fatto nessuna allusione io su questo. Beh, insomma, non ha fatto nessuna allusione. Ma questo potrebbe essere come le oggettine, che non c'entra niente, non ho mica detto che li ha presi in modo disonesto. Beh, insomma, lei ha detto, non è che ha detto li ha presi in modo disonesto, ha detto che le sue proprietà, il suo patrimonio non è compatibile con il lavoro dopo. Lui ha detto però io ho lavorato prima di fare politica, ho lavorato in Pubblicità, eccetera, eccetera. Sì, e come si è messo da milioni di euro lavorando, vendendo pubblicità. E poi c'è la moglie, magari ha dei soldi la moglie. Può essere, ma tutte cose che possono essere. Quando è successo a me una cosa del genere, sì. il giornale di Belpietro allora ha sostenuto che io avevo avuto un vantaggio, ho chiamato tutti i giornalisti a casa mia, ho mostrato tutti i documenti, e la cosa si è chiusa. Cioè faccia lo stesso, dice lei. E faccia lo stesso, faccia il bravo, faccia vedere la sua villa da rababbo di cattivo gusto a tutti. Ma lui dice che c'è un sacco di buffi, ha un sacco di buffi in banca, ha detto ha un sacco di... insomma, Antonello Caporale, io lo leggo sull'Espresso, sì. Ha sostenuto queste cose, lui ha detto, sì, signor Galan, questa specie di energumeno, fannullone, evita di attaccarmi in modo così volgare, non succede certo che io vado a svegliare anche dorme. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me. 800 24 00 24, cosa vuoi ascoltare, Parenzo? Che ti faccio ascoltare? Dimmi tu, cosa ti faccio ascoltare? Fare un altro delirio dell'avvocato Taormina. No, ti faccio ascoltare Miccichè che dice: ho comprato casa con un prestito di Berlusconi. Ormai escono fuori. Ma perché tutti riescono a comprare casa con Caiola a sua insaputa? È cosa incredibile. Ho comprato casa con un prestito di Berlusconi. Stavo passando un brutto momento, eccetera, eccetera. I soldi di Berlusconi servono a comprare case a tutti, a tutti, dai politici a quello che sappiamo. Va, a quello che sappiamo. Sentiamo. Le oggettine, dici? Sì, vabbè, dillo tu, va. Sentiamo. Per comprare la casa dove siamo oggi ho ricevuto un prestito di Silvio Berlusconi, non gliel'ho estorto. Gli ho chiesto un aiuto ed era un periodo della vita in cui mi potevo permettere di chiederglielo e lui me l'ha dato, appunto. Per cui ora, conoscendo Silvio Berlusconi, del cui operato oggi come oggi non posso parlarne bene, specialmente degli ultimi anni, però so quanto generoso è, quanto tiene alle amicizie. Beh, un po' quello che diceva prima Zanonato di Galan, magari questa villa, come dice lui, di cattivo gusto gliel'ha comprata Berlusconi, Zanonato? Sì, beh, io non dico, sono una persona estremamente pacifica, non mi piace essere pestato in testa da nessuno e tantomeno da un fannullone come Galan. Ma perché dice fannullone? Perché dico fannullone? Lo spiego subito. Perché in 15 anni sì. Non è riuscito, per esempio, a creare una holding delle società di servizio comunali. Vabbè, ma quello è in una... Emilia, in Lombardia, in Toscana, sono opere per tutto. Lui invece va a pescare i cefali, no? Male, questa qua è una critica politica a quello che ha fatto Galan. Però lei, quando uno dice fannullone, fannullone vuol dire perdi che tempo. Non si è impegnato a risolvere i problemi della mia regione, che è rimasta indietro su tutto. Quando lui parla del Veneto dice che sono belle le Dolomiti. Mi domando, ma penso di averle fatte lui. Senta una cosa, Zanonato, ma la vuole portare in tribunale, lo sa, sì? Come? La vuole portare in tribunale per le cose che ha detto, volgari, inutili, fanno nulla. Ma mi divertirò da morire, perché ho un figlio, un avvocato bravissimo. E mi faccio difendere gratuitamente da mio figlio e vediamo se va bene dire a uno che fa un'operazione industriale di portata nazionale premiata che vuole trovare un posto di lavoro, diceva, per trovarsi il posto di lavoro quando non sarà più sindaco, se quello si può dire questa porcheria e vulgarità, si può dire, mentre non si può dire guarda, non ho capito come ti sei fatto quel patrimonio da nababbo. Ma perché questa villa è di cattivo gusto? Perché cosa sembra questa villa? Da quello che si legge sui giornali, non la mostra certo i giornalisti. Non no, ci sono le foto, ci sono le foto. Ecco, da quello che si vede è fatta in modo pacchiano, ma del resto è questo il gusto della persona. Sì, è una persona... Non è un raffinato, ecco. No, lei dice di no. È kitsch, dice. Beh, kitsch, addirittura kitsch. Non lo so, chiedo. Ma anche lui sta cercando un posto comunque in ogni caso, sta cercando ma lo troverà, figuriamoci, insieme alla Minetti e a qualche altro sarà sistemato da Berlusconi, non è un problema credo per lui. A me piace che le persone quando si parlano dicano cose non offensive. Ma lui pensa il contrario. Sono cresciuto in un ambiente molto popolare, se mi offendono reagisco. Lui ha detto tra l'altro, ma io ho lavorato, mentre lui ha sempre fatto il funzionario di partito, funzionario delle cooperative, eccetera, eccetera. A parte che si lavora facendo anche funzionario di partito e funzionario delle cooperative, ma ammettiamo che non si lavori, siccome in politica da 20 anni, cosa si sta grattando da 20 anni il signor Galan? Perché sono 20 anni che fa politica e non un minuto prima. E dice, se accusa a me. Allora, se fosse vero che ha lavorato e che io non ho lavorato, negli ultimi 20 anni non ha fatto un cazzo neppure lui, no? Comunque, secondo me è chiaro il concetto. Sì, non ha fatto un cazzo neppure Galan. Negli ultimi 20 anni, se uno mi attribuisce, come dire, se uno attribuisce alla politica questa accezione così, questa accezione così negativa. C'era un'altra cosa interessante. Sul PD, chiediamo al sindaco di Padova. Lei chi preferisce tra Renzi e Bersani? Guardi, a me sarebbe piaciuto enormemente che si formasse una squadra fatta di Bersani e di Renzi, perché insieme sono davvero una coppia vincente, super vincente. Uno ha una comunicazione nei confronti di determinate categorie, l'altro ha una concretezza, una capacità di stare sul pezzo, però veramente forte. Mi dispiace che siano contrapposti. Tra i due scelgo a malincuore Bersani. Perché a malincuore, dice il sindaco? No, perché mi sarebbe piaciuto che fossero insieme, perché penso che quella sarebbe stata la carta vincente. Invece perché scelgo Bersani, mi pare più concreto e più adatto ad affrontare questa fase così critica della vita economica e politica del paese. Dico anche che sono convinto che Renzi sia una risorsa e non vada persa. Ecco, ma le piace questa idea di rottamare la vecchia classe dirigente come vuole fare Renzi, oppure la trova una cosa un po' da spaccone? Allora, si possono allora, il problema posto da Renzi è un problema vero. Esiste una classe politica che è troppo vecchia, su questo siamo d'accordo. Sì. La terapia non consiste nel mandarla via e basta, ma nel creare un processo in cui a questa si sostituisce una classe politica in grado di governare e rinnovata. Esattamente come se fossero tutti vecchi docenti della nostra università, e lo sono, non è che metti non si possono cacciare così. Scuole elementari a insegnare. Cioè i vecchi hanno ancora qualcosa da dare, i vecchi del partito? Ma devi mettere in moto un processo, sostituire gradualmente. Lui pone un problema che esiste. Che ne so, D'Alema si deve ricandidare secondo lei, Zanonato? Oppure può anche non stare in Parlamento? Io credo che i D'Alema, la Bibi e molti altri si candidano se hanno il consenso. Ma vabbè, quello come si fa a valutare il consenso? Uno prima si candida e poi lo valuta. Esempio con le preferenze si vede subito. Ma le preferenze è quando ti candidi, però. Se non ti candidi è difficile. Ho capito, ma se i cittadini lo vogliono eleggere. Quando dico una cosa divertente, è stato un periodo in cui il Partito Comunista Italiano non ha ricandidato alcune persone perché avevano già fatto un certo numero di legislature. E i radicali, gli altri partiti li hanno ricandidati e sono stati eletti. Non vorremmo mica fare questa cosa. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma Briatore, voglio sentire Briatore. Fossi in Berlusconi mi occuperei della salute. Flavio Briatore. Presidente ha 74 anni, per cui fossi in lui mi occuperei della mia salute, di stare bene fisicamente, di stare bene con i miei familiari e con tutto quanto. Rimarrei a vedere cosa succede. Briatore consiglia a Berlusconi non di scendere in politica, non di tornare a combattere, ma di occuparsi della salute. Sgarbi, Grillo come Gheddafi, ormai in libertà, Sgarbi, in libertà. Ieri ci ha fatto ascoltare, Grillo è come Gheddafi. Come Gheddafi. Beh sì, ma punturina doppia. Si muove in due spazi. Dentro la politica con dei poveretti che vedono in lui una speranza ed è una realtà oggi. E lui stando fuori, perché non si può candidare. Questo vuol dire anche però fare politica in Parlamento essendo extraparlamentare, cioè essendo un po', cosa che piacerebbe anche a me, come era Gheddafi, che era la guida della rivoluzione con una funzione che non era interna al governo e al Parlamento, non era né Presidente del Consiglio, né Presidente della Repubblica e neanche Ministro o Primo Ministro. C'è anche Della Valle, Della Valle furibondo contro gli Agnelli, contro la Fiat, contro Marchionne. Della Valle allattato. Ha detto delle cose di buon senso. Ha detto delle stupidaggini colossali. No, ha detto da imprenditore di successo, ha detto delle cose di buon senso. Delle stupidaggini colossali dell'impresa. Ma quale responsabilità dell'impresa? Marchionne non dice delle cose. No, amico mio, Marchionne si era preso. Vabbè, preso parti con... Di fronte al paese. Sì, di fronte al paese. Di fronte al paese. Italia non fabbrica un cazzo, hai capito, per dirla perché proprio hanno molto deciso, come piace a te. Perché hanno deciso che non è più conveniente, dunque e i piani aziendali. Lui si era preso degli impegni per mantenere e chi se ne frega. Produttivi in Italia, ma che non c'entra niente il passato, fa gli interessi della sua azienda. Perché ha cambiato alcuni contratti proprio in funzione del fatto e senti, secondo me ha fatto bene allora, a cambiarli, ma in funzione. Sì, io sono d'accordo al 100% con quello che ha scritto oggi Maurizio Belpietro sul Libero, cioè il problema è l'Italia e non Marchionne. Comunque, in ogni caso, adesso non ci mettiamo dentro questa diatriba. No, in questo però. Della Valle c'è un ministro poco che illuminante sarà la tua. C'è un ministro che aspetta la telefonata. C'è un ministro che aspetta la telefonata, Della Valle. Abbiamo visto che nessuno dell'azienda risponde, c'è un governo che vuol sapere delle cose. Sento addirittura di un ministro che aspetta trepidante vicino al telefono una telefonata, ma questo è un modo di avere rispetto per un paese? La famiglia Agnelli torni a sciare e a beleggiare. Bellissima, ha ragione. Serve anche che la famiglia Agnelli in questo caso continui a fare quello che ha sempre saputo far meglio, ottime sciate, belle veleggiate, torni a giocare a golf e lasci l'Italia in mano alle persone serie. Cose che non significano nulla se non giochi di potere che conosciamo bene. Contro John Elkann, a me non me ne frega niente di difendere John Elkann, però tutto questo non è il frutto di un ragionamento, è frutto di giochi di potere, ma è no, frutto ma di essere, giochi di potere essere, e basta. Anche nel merito delle ma cose quale che merito dette? Di che cosa? Sciare, veleggiare, ma che vuol dire? Cioè che gli Agnelli hanno sempre fatto... Ma non dire cazzate, su, no. Ma che cosa strana che un'azienda adesso così internazionale abbia interesse a produrre dove costa di meno e non in Italia? Che cosa bizzarra, che cosa strana? Un governo che aspetta la telefonata di un imprenditore. Ma si incontrano sabato, manco succederà. Lo sai, si incontrano capito? Sabato con Monti, dai su, John e Giovane. Per dire cosa? È cosa che annuncerà. Ma che ne so, vedremo. Lo dica, ma abbia il coraggio di dire me ne vado dall'Italia anziché fare come ha promesso. Lui si era impegnato a mantenere la produzione e invece le cose sono andate in modo diverso, l'economia è andata diversa e le scelte sono diverse. Hai qualcosa da contestare? Hai da contestare contro le imprese? Contro la libertà di fare l'investimento dove uno, vuole? E allora, non è la libertà di fare l'investimento allora, dove uno vuole. Visto fammi che sentire gli hanno della fatto Valle, fare un contratto ad hoc. Ma che ce gli hanno fatto fare un contratto? Gli hanno fatto fare un contratto. Sentiamo, come no? Sentiamo Della Valle. Faccio fatica a parlare di Iachi perché lo conosco da bambino e non c'è bisogno che io polemizzi con lui. Credo che sia un ragazzo giovanissimo che ricopre un ruolo che non ha l'esperienza di poter ricoprire e che lo porta anche a fare molti errori. Però mettermi a discutere con un ragazzo che può essere mio figlio, questo mi costa fatica, me lo eviterei. Purtroppo oggi in quella famiglia c'è lui e pertanto bisogna parlare con lui. Avrei preferito parlare magari con i suoi parenti, mi sarei sfogato magari di più. La i grandi ragionamenti di Diego Della Valle. Beh, i grandi ragionamenti di Diego Della Valle, titoli del TG3, ma fai, dai, su. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Berselli. Sul futuro della Fiat faccia a faccia sabato, tramonti e vertici del gruppo, Marchionne mi impegno, ma devono farlo tutti, vendite sempre più a picco. Presentato dall'Ilva il piano per evitare lo stop, previsti investimenti per 400 milioni per il ministro Clini, 3 anni necessari per la bonifica. Napolitano, non si torna indietro dagli impegni presi con l'Europa, il fiscal compact è necessario, ma è possibile coniugare crescita e rigore. Nessun controllo esterno sui bilanci dei gruppi politici della Camera. La Giunta respinge la proposta di Fini, il PD, l'UDC e DV, noi li faremo certificare. Clamorosa gaffe del candidato repubblicano, ripreso di nascosto, dice mezza America vota Obama perché vive di sussidi, non paga le tasse. Il tribunale di Nanterre blocca le diffusioni delle foto rubate a William e Kate. La Mondadori dovrà restituire gli scatti. Mediaset fuori dalla gara per la 7 dopo lo stop di Mediobanca, resta in corsa Murdoch, Telecom dice non venderemo a qualsiasi prezzo. Zanzara! C'è una zanzara. Intanto replica di John Elkann in questi minuti a Diego Della Valle: non capisco il livore che lo anima, sono stupito che alla sua età e con le aspirazioni che ha agisca in modo così irresponsabile. Quale sarebbe il modo irresponsabile? Vabbè, queste sono le valutazioni di John Elkann, gliene ha dette di tutti i colori. Abbi pazienza, uno può anche replicare, no? Cioè, certo, sto semplicemente allora, chiedendoti punto, a te, che sei un attento, ma non lo so, ma queste sono repliche, raccontatore politico, ma queste sono repliche. Sarebbe, ma replica, ma uno replica, però dicevo delle cose sensate, no? Vabbè, ha detto delle cazzate. Ripeti cosa ha detto. Ripeti, cioè, se tu capisci, me lo così spieghi, irresponsabile io nei confronti di un'azienda, magari, ecco, non lo so. Cioè, cosa vuol dire irresponsabile? Vabbè, nei confronti di un'azienda? Ti piace, vabbè, ti piacciono le frasi di Della Valle contro Marchionne? Moltissimo, moltissimo, benissimo, bravo. Perché sono bravo. Le frasi di un imprenditore di grande successo. Ma che cosa c'entra che imprenditore di successo? A investire in Italia, ma non c'entra, non è un obbligo. Non è un obbligo. Ha deciso addirittura di dare dei premi ai suoi operai, vabbè, dei premi in denaro, perché ritiene che gli utili non fare il buffone su questo, perché lui ritiene che gli utili che un'azienda fa vadano ridistribuiti all'interno delle proprie intelligenze che ci lavorano. Questo è un imprenditore. Non pensavo che fossi così un lecchino di Della Valle, non pensavo che fossi un lecchino di Della Valle. Non sono lecchino di niente. Stai leccando Della Valle così, stai slinguando Della Valle. Lui non me ne frega nulla di Della Valle. Nel merito, Massimo, mi hai scocciato. Massimo Riccardo. Togli l'audio un attimo, Massimo dalla provincia di Bologna. Avanti. Ciao, buonasera. Sì. Complimenti, Giuseppe, sei un maschio. Vabbè, Massimo, vai, non mi dare del tuo. Vabbè, già mi hai rotto le scatole. Piero dall'Aquila. Piero? Non c'è, Enrico da Cagliari. Sì, c'è. Pronto, Enrico? Sì, dica. Sì, mi sento, adesso mi scusi, niente, complimenti per la trasmissione, secondo me andrebbe trasmessa 24 ore su 24, però sinceramente, Cruciani, mi è caduto sul fatto che è un paio di trasmissioni che va lì e punta il dito sul fatto che non si può votare online. Ma non si può votare online, che cosa? Sì, scusi. Più volte l'ho sentita, ripete questa storia, con la storia di Grillo, dei grillini che vorrebbero fare online, governo online, provvedimenti online, leggi online. Sì, tutto online, sesso online, tutto. No, magari se sono online, non diciamo minchiate. È una cosa fattibile, c'è la PEC, c'è la posta certificata. Tutti a casa, tutti a casa, restiamo a casa. Che ci prego? Cosa stai dicendo? Che c'entra tutti a casa? Io non lo so, io stavo parlando di un'altra cosa quando ho criticato questa roba qui. Era la questione di Favia. No, non è una volta che ne ha parlato. No, l'ha ribattuto un paio di volte. Senta, secondo me la democrazia e le elezioni sono una cosa molto chiara. Uno va al seggio, vota e vota per una persona. Poi si può fare in mille modi, ma uno al seggio ci deve andare. Le cose online, le consultazioni, bisogna controllare, eccetera, tutte puttanate. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Grandi combattimenti questa sera sulla vicenda Della Valle che critica Elkann, le risposte di Elkann, Marchionne che deve incontrare il governo, eccetera, eccetera. Io voglio fare risentire Sappi questo. Sì. Sappi questo. Oddio mio, riattacca un'altra volta questo qua. Su, avanti. Senza fare il portavoce della Valle che non ha bisogno, sì, perché bisogna parlare di fatti, non di minchiate. Va bene, i fatti. A differenza di Marchionne, che si era preso degli impegni con il governo italiano precedente di Saponi, il signor Della Valle dice: la Pisi morde bene. Noi, siccome abbiamo fatto utili e siamo un'impresa responsabile, decidiamo di fare un piano di gratifiche per i nostri dipendenti. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Questa è la differenza tra un imprenditore che ovviamente fa i suoi interessi perché fa i suoi Ti piace più Della Valle di Marchionne? Bravo, applausi. Ma non è applausi. Che piace così. Ti piace di più, benissimo, ti piace di più. Sì, l'impresa responsabile. Senti, ma perché non vai a fare un simposio di filosofia da qualche parte invece di romperci coglioni qui? Cioè, vai a fare un simposio di filosofia. Fammi ascoltare un attimo Scilipoti. Vai a fare un simposio sull'impresa responsabile da qualche altra parte. Fammi ascoltare il nuovo spot di Scilipoti, per favore. Il nuovo spot è fantastico di Scilipoti che sta spopolando. L'MRN sarà presente in tutte le province siciliane alle prossime elezioni con una sua lista indipendente formata da professionisti e stimate persone appartenenti alla società civile, tutte rigorosamente provenienti dal territorio. Lo afferma in una nota Domenico Scilipoti, segretario nazionale del Movimento di Responsabilità Nazionale. Un solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padri e figli e per chi ancora verrà. Per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo cuore, un'unica idea. Nel filmato si vede questa ragazza che è come la figlia di Brooke di Beautiful, eh? Forse lo spot più brutto che sia mai stato prodotto nella storia della comunicazione politica italiana. Bravo. Allora, abbiamo un politico, un consigliere regionale del Lazio che ascoltava prima le parole di Carlo Taormina e ci ha chiamato, fra poco lo faremo intervenire. Ah, bene. Voglio sentire prima Daniele da Padova. Daniele? Sì, buonasera Crociani. Dica. Buonasera Parenzo. Dica. Niente, prima ho acceso la radio, ho sentito che c'era l'amico Zanonato In diretta che parlava appunto. Niente, io volevo solo portare una dichiarazione di sono solidale con il signor Galan che conosco da tantissimi anni, siamo coetanei, conosco bene la famiglia. Vabbè, perché è solidale con Galan? Su, perché non è un cialtrone, perché è stato governatore del Veneto, che c'entra questo? E Zanonato ha distrutto la città, perché Zanonato ha distrutto la città. Adesso non è che ci sono le macerie a Padova, su. No, ma non è questione delle macerie, ma se cioè, ognuno prende... come al solito quello dice che Padova è stata amministrata male, Zanonato dice che il Veneto è stato amministrato male quando c'era Galan. Queste sono le solite schermaglie, insomma. Ma io invito solo la gente a prendere un quotidiano tipo Gazzettino a leggere ogni giorno. Quando arrestano un extracomunitario, minimo 3 poliziotti vanno al pronto soccorso. E chi paga? Credo, ma non è che dipende dal sindaco la criminalità. È come dire che uno ammazza per strada una persona a Milano ed è responsabile Pisapia. È una stronzata, una cretinata questa cosa qui. Non è il discorso di Pisapia. Il discorso è uno solo. Sì. Allora, io sono un cittadino padovano. Sì. Ho una residenza, sono dall'anagrafe, tutto quanto. Quando sono andato a abitare nella mia casa, sono dovuto fare un controllo e vedere. Ma Daniele, ma che cosa ci interessa a noi questa cosa qui? Chi se ne frega? No, è che è lo sfascio tutto. Lo sfascio, Padova è lo sfascio, avanti. Padova è lo sfascio per colpa di Zanonato, avanti. Ma certo, Zanonato lui pensa a fare le europee di là, sì, tutte quelle stronzate, ok, a buttare soldi a destra a manca. Grazie Daniele, grazie. Bruno da Trieste, tutto. Bruno da Trieste, dica Bruno. Dica. Due cose velocissime, sono Bruno da Trieste. Sì. Allora, dato che sono iscritto al Movimento 5 Stelle, vorrei dire qualcosa in merito a quello che ha detto Pisapia. Sì. Che Grillo, sapendo di essere condannato, perché c'era anche lui al processo, non si è mai presentato e mai si presenterà alle elezioni. Guardi, guardi, ma non c'è bisogno di ricordare che Grillo non vuole presentarsi alle elezioni per sottolineare che la frase di Pisapia è sbagliata. Cioè, evocare la questione della condanna di Grillo per quell'incidente stradale è stupido. Cioè, Grillo si può criticare in mille modi, ma non perché ha avuto un incidente stradale, punto e basta. Cioè, non c'è bisogno di evocare altre cose. Luca Telese, grande ritorno alla Zanzara. Ecco, la Zanzara si illumina d'immenso quando tornano i numeri uno. Luca Telese, direttore di pubblico, hai venduto un sacco di copie col primo numero di ieri. Allora, quindi Frank Capra, che perché? Forse tu non hai visto, perché tu no, io sono ignorante, non vedo queste cose qui. La vita è una cosa meravigliosa, tutti i Natali lo danno, non l'hai mai visto? Sì, forse sì, non mi ricordo, non mi ricordo. Io, come diceva Tremonti, noi gente del popolo non leggiamo i libri, non guardiamo i film, facciamo Tremonti, altre cose. Gente del popolo, questa mi piace. Un attimo solo, Luca, perché ci ha raggiunto un signore che ci ha chiamato prima un po' sconvolto, colpito dalle parole di Taormina, avvocato di Fiorito, detto Batman, insomma vuole replicare. Antonio Cicchetti, che consigliere della regione del Lazio, potrebbe subentrare lo stesso Fiorito come capogruppo del PDL. Cicchetti, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, vogliamo fare risentire brevemente quello che ha detto il signor Taormina. Ha detto che praticamente tutti fanno come Fiorito, hanno fatto come Fiorito. Sono hanno speso i soldi in puttane, ha detto. Si sono fatti gli affari loro. Insomma, i soldi sono stati spesi da tutti allo stesso modo. Anzi, ha parlato pure di fatturazioni false, cosa che Fiorito non ha fatto. Questo l'avvocato di Fiorito. Sentiamo Taormina. Il mitico Fiorito in sostanza è uguale a tutti gli altri consiglieri della Regione Lazio, né più né meno. Né più e né meno, anzi forse meno che più. Cioè, lei dice che tutti gli altri fanno la stessa cosa, utilizzano i soldi per comprarsi le macchine, per andare a puttane e quant'altro. Ma veramente sta dicendo? Ma è una porcilaia, avvocato. Vedrà, certo, è un porcile. Certo. Ma avete dei dossier? Avete dei dossier in mano? Abbiamo tutto in mano e daremo tutto all'autorità giudiziaria. Vabbè, poi ha parlato anche di fatturazioni false, cosa che Fiorito non ha fatto. Te lei sei capito innanzitutto? Guarda, ho capito che Taormina difende Fiorito e mi unisco solidale in questo momento. A Fiorito, dici? Di dura difficoltà. A Fiorito, l'ultimo dici? Che ho difeso era l'ultimo annuncio di Taormina a Zanzara, che mi rimane inciso a carattere cubitali nella pietra, quando disse: ho assunto la difesa Saddam Hussein. Due giorni dopo fu impiccato. Poi c'è anche la mitica difesa della Franzoni. Cicchetti, cosa ha da rispondere a quello che dice Taormina? Beh, ho da rispondere che ci sono anche persone per bene nel gruppo del Popolo della Libertà e nel Consiglio regionale del Lazio. Ho da rispondere che io ho un curriculum di sindaco da 8 anni della mia città, 8 anni di sindaco, senza mai avere un procedimento dalla magistratura. Ho fatto l'assessore ai lavori pubblici, nelle quali condizioni. Sono consigliere regionale dal 2005, non vado a puttane, non sciupo i soldi del consiglio regionale per le attività che segnala Taormina. L'ultima rata della mia Alfa 147, comprata nel 2007, l'ho pagata il 24 agosto e sto rimettendo 1000 euro al mese alla banca che mi ha anticipato i soldi per fare la mia campagna elettorale. Cioè, lei mi sta dicendo che con la politica ci rimette? Io ci ho rimesso con la politica. Addirittura, Cicchetti, faccia una telefonata a qualcuno che conosce lei a Rieti. Glielo possono dire, io ho venduto parte del mio patrimonio per fare politica. Politica, e non accetto canagliate di questo genere diffuse attraverso la radio, perché ho la mia dignità e la mia onorabilità da difendere. Un attimo solo, Cicchetti, io la capisco naturalmente dopo quello che ha detto Taormina. Telese, però Cicchetti dice, per carità, ci dobbiamo credere fino a prova contraria, che con la politica ci ha rimesso. Che guarda, fai? Cicchetti è lì, io spero che lei ci possa trovare questa affermazione onerosa. Io vedo che i politici sono in business class, viaggiano sulle blindate, si spendono perché fanno campagne elettorali faraoniche, e se ci rimettessero così tanto, ma perché un consigliere comunale? Me lo dica lei, perché un consigliere comunale spende 1 milione di euro per essere eletto nel Lazio? Siete tutti santi benefattori, ci volete per passione? Cicchetti, per passione, dice lei, ci ha rimesso? Scusi, sai quanto ho speso io? 70.000 euro. e ne ho presi 50.000 alla banca. Non ha neanche fatto un manifesto, allora. Se vuole venire ad accertarsi, le sì. No, però al di là di quello che lei dice, cioè io ci ho rimesso con la politica, no, va bene, ma noi ci crediamo. Cicchetti, però, scusi, lei è pronto a giurare, poi naturalmente le cose saranno verificate, che giuro i soldi... No, certo, che i soldi che lei ha utilizzato, che sono circa 210.000 euro all'anno per ogni consigliere regionale, eccetera, lei li ha utilizzati per l'attività politica, punto e basta. Non c'è una fattura di ristorante. Io l'ho utilizzato per stampare libri, per fare comunicazione via radio e via televisione in trasmissioni dell'accesso a pagamento. Sì. Dovrebbe essere la norma questo. Beh, allora, voglio dire, dovrebbe essere la norma, di cos'è che si vanta? Dovrebbe essere la norma questa. No, vabbè, non è che si vanta. Non voglio essere aggredito però, capisce? Sì. Però, ma lei adesso non è che può dire... responsabilità penali. Verranno messe in luce, tra l'altro c'è un magistrato molto serio che sta indagando, perché è stato per alcuni anni nella mia città e ha lasciato un'ottima impressione della sua persona e dell'esercizio della sua funzione. Però scusi Cicchetti, ma del fatto che questi soldi qualcuno però li utilizzava in maniera un po' bizzarra, a dir poco bizzarra, qualcuno di voi se n'è accorto, sì o no? Perché non se n'è accorto nessuno fino adesso? Io questi soldi, ho capito, sono i soldi del gruppo. Sono i soldi del gruppo. Scusi, li gestisce il capogruppo. Sì. Io non so che cosa è successo e sono venuto a sapere quando c'è stato un cambio inopinato di capogruppo di alcune vicende sulle quali sta indagando la magistratura, perché i documenti non ci sono nemmeno. Sono venuti a sequestrarli gli agenti della Guardia di Finanza. Comunque, lei dice tutti i soldi che io ho preso, che secondo me sono troppi, andrebbero cancellati. Tutti questi soldi li abbiamo cancellati. Adesso l'avete cancellati, certo. Adesso l'avete cancellati. Ma non me li sono scelti io. No, ma ho capito, ma nessuno è responsabile di questi soldi, di chi decide di dare questi soldi. Ma comunque, Cicchetti, non me la sto prendendo con lei che è un consigliere regionale, eccetera. Mi sto dicendo. Sono una persona per bene prima di essere un consigliere regionale. No, ma non me la sto prendendo. Tengo a questa qualifica. No, ma per quella di consigliere regionale. E allora quereli Taormina perché ha detto che lei va a puttane, come tutti gli altri. Perché... Ma guardi che può essere querelata pure Radio 24, perché l'ha trasmesso quello che ha detto Taormina. Che c'entra? Che c'entra? Scusi. No, però scusi, che c'entriamo noi adesso? Non è che uno. Voi l'avete diffuso. E beh, certo che l'abbiamo diffuso. L'abbiamo intervistato e lui ci ha detto queste cose che dovevamo fare. Ma se uno esce fuori dal vaso, va controllato, egregio signore. No, ho capito, ma Taormina, Taormina mi conosce bene, perché abbiamo avuto dei dibattiti insieme a Gold TV a Roma. Sì, sì. E sa bene che persona sono. Però scusi, sono a parte che non ha uno di quelli che dovrei essere ricompreso nella genia di quelli che fanno azioni malefiche. Io non ho mai fatto cose di questo genere. Telese. E posso certificare e documentare Luca, che il mio patrimonio da quando sono entrato in politica è diminuito e non aumentato. Bene. Luca. Poverino. Eccomi. Che dici? Guarda, io tutta questa storia, scusami, la guardo con scetticismo perché vivo a Roma, ho seguito mille cose, un manifesto, un 100% 40 per informare gli ascoltatori e il formato posterone, ecco, uno di quelli, a Roma se ne affiggono perché si possa vedere qualcosa, 30.000 in una notte, vengono coperti presumibilmente prima che si asciughino, perché a Roma, nel contrario al resto d'Italia, non è un far west, non esistono planche, non esistono spazi. Allora qualunque consigliere, soprattutto quelli del centrodestra, dove dovevamo chiedere quanto ha preso di preferenze. No, ha prese, credo, quanti ne ha prese? 13.000, 14.000? 14.000 preferenze. 14.000. Sono stato il primo eletto in Italia. Come ci parliamo con voi quando siete in off record, quando non difendete l'onore? Un qualunque consigliere del PDL che vuole fare vedere tre manifesti suoi, sia sincero, no? Deve mettere in budget per tre manifesti, un euro a manifesto di attacchinaggio, uno di stampa, insomma 2 euro, e deve spendere per far vedere tre manifesti qualcosa come 100.000 euro. Questa è la verità. Poi ci metti il comitato elettorale. Beh, ma questo è il motivo per cui lui dice che si è impoverito. Quindi minimo di questo non si può spendere. Se lei ha fatto il miracolo nel PDL dell'unico che addirittura è riuscito a non spendere soldi, che no, ma lui dice che li ha spesi, al contrario, dice che li ha spesi e per questo si è indebitato. Sì, ma poi dopo si piglia lo stipendio da parlamentare, c'è un piano d'ammortamento, come gente che fa un mutuo si viene eletti perché poi si ammortano le spese. Certamente l'unico che ci ha perso dopo averli spesi, mi sembra difficile. No, scusi, abbia pazienza. Io ho investito in 46 anni. Sì. Parte del mio patrimonio l'ho liquidizzata per mantenermi a fare politica. In 46 anni. Sì. Ritengo di dover essere rispettato perché sono una persona per bene e tale mi considerano anche i miei avversari politici. Però scusi, è la mia città. Allora, delle due l'una, o lei è insincero sulle cifre, ma noi le diamo il beneficio di inventario, oppure se lei per 46 anni ha speso parte del suo patrimonio solo per il piacere di avere una qualifica di politico, allora lei è altrettanto sospetto. Cioè, temo la tossicodipendenza del palazzo, però se lei mi dice che ha fatto beneficenza, che non è rientrato dei suoi investimenti, che le no, sta dicendo che con la politica ci ha rimesso e si può, sta dicendo che si può verificare, che devo fare io? Prendiamo atto di questa cosa. Invece, ora non entro nel caso perché il suo caso io non lo conosco, però quello che... Vabbè, comunque la cosa principale che ci ha detto è che lui... Politici indiretti, economici indiretti, oltre al mandato parlamentare, oltre alla quasi equiparazione a prerogative di un parlamentare, i benefici sono enormi, si prendono le indennità, si sta nelle commissioni, si ottiene quel rimborso e quindi il sistema che esce cioè tu vuoi dire non si può dire non si può dire che con la politica ci ho rimesso nella vita, insomma, che è stato... Credo che ci rimettevano i militanti comunisti e forse democristiani degli anni 50. Se ci rimetta oggi, devo dire, guardi, vabbè, se lei me lo dimostra, allora lei è un matto, si riposi, si stacchi dalla politica. Se uno sta dentro questo acquitrino con dei colleghi che si facevano regalare le macchine ed è l'unico candidato e non se ne accorge, perché poi a questo punto, allora stia fuori dalla politica. Se lei è un benefattore, non la faccia la politica. Ma guardi, io ho una passione politica, io vengo dal movimento sociale, non vengo da dalla strada. Ho fatto dal 1966, sono diventato consigliere comunale nel 1975, ho fatto 19 anni l'opposizione e nel 94 sono diventato sindaco, spendendo 8 milioni dei miei. Vabbè, ma Cicchetti, lei era un benefattore. Però un attimo solo, Cicchetti, io la ringrazio. Se la pigli con Taormina, però, perché ha messo tutti nel calderone, noi non c'entriamo niente, cioè, già abbiamo i nostri guai, per carità. Adesso... Ma voi l'avete trasmesso, però. Beh, ma ancora insiste, ma Cicchetti. Abbiamo era in diretta ieri sera, che facevamo? Lo strozzavo, ha detto. Lo so, ma insomma, non è possibile permettere che qualcuno sputi su tutti quanti. Se ci sono dei responsabili che vengano perseguiti... Ho capito, ma lo dice continuamente che sono tutti uguali, Taormina. Ha questo modo di parlare, dice sono tutti uguali, spendono tutti allo stesso modo. Non è vero, però. E vabbè, glielo dica a lui, noi non c'entriamo niente. Io sono... uguali non è vero. Sono anche d'accordo con lei, però E parlo anche a nome di altri colleghi, perché mica tutti siamo in questo calderone. Comunque lei a puttane non ci è mai andato, tanto per essere chiari. Ma io non prendo né ostriche né champagne, non c'è una fattura di ristorante. Quando vado al ristorante pago con la mia carta di credito. Qualcuno però pagava ma con allora i soldi del gruppo. Perché non lo cacciate? Va cacciato Fiorito o no? Pedate nel sedere. Alfano ha parlato di questa vicenda, ha detto che sarà portato dai probiviri. Ma che probiviri? Uno se lo vuole cacciare lo caccia in due secondi, su Cicchetti, pure lei. Cicchetti. Ai probiviri. Ma che probiviri? Scusi, per il solo fatto, Cicchetti. Scusi, lei ha i conti all'estero? Ha dei conti all'estero, lei? No, io ho i conti a Riga. Benissimo, allora, per il solo fatto che uno prende i soldi del gruppo, i soldi che li diamo noi, i soldi nostri, e se li mette sul conto proprio, per il solo fatto che uno faccia questa operazione dovrebbe essere preso a calci nel sedere. Senta, io posso condividere quello che dice lei, ma io non sono Angelino Alfano. No, per carità, ma infatti non mica... Non posso cacciarlo io, è chiaro. Va bene, poi, grazie Cicchetti. Altro che sta nelle stesse condizioni dentro il consiglio comunale o dentro il gruppo, faccia luce la magistratura. Bene. Ma io non intendo essere confuso con gente che approfitta del denaro pubblico, perché non l'ho mai fatto. Bene, e grazie. Allora inizi con chiedere le dimissioni grazie, di questo signore. Grazie Cicchetti. Luca? Mamma mia. Che succede? Non è abituato più alla battaglia alla Zanzara, non sei più abituato. La Zanzara sta diventando una cosa che ci vuole il sollevamento pesi per poter entrare. Vabbè, caro, che ti devo dire? Stai sfornando per domani? Mi dicono domani che c'è qualcosa in ballo con Vendola. Che succede con Vendola? Annuncia domani che non si candida alle primarie. Abbiamo un'intervista a Vendola in cui non solo è venuto qui nel forum, non solo spiega tutto quello che sta accadendo dentro il centro-sinistra, non solo dice una cosa che io ho trovato incredibile, cioè che se vincesse Renzi, lui resterebbe alleato anche del PD di Renzi, quindi è un salto enorme. Cioè, oggi ospitavamo Bersani e si sposta verso sinistra. E ma si candida o no lui? Eh? Si candida o no alle primarie? Ha detto che il giorno 30 scioglierà il suo dubbio. Luca, t'abbraccio. È legato al fatto, proprio al fatto che lui è in un rapporto di forte, lo abbiamo capito, lo ha spiegato, di fortissima solidarietà in Bersani in questo momento. Quindi diciamo che dunque non si candiderà, la tua previsione è che non si candiderà, dai Luca. Ma no, perché Bersani dice anche in un'intervista che ha fatto oggi a Pubblico che lui vuole il doppio turno. Il doppio turno crea una specie di vantaggio per Bersani, che più annacqua, più sfidanti ci sono, meglio è, no? Perché chi poi va al ballottaggio viene legittimato da un forte peso e diciamo se la sfida diventa una sfida 8 si annacqua il peso specifico di Renzi, che è lo sfidante, che è il grande problema in questo momento. Però volevo dirvi che c'è un'altra cosa e purtroppo non vi posso dire oggi. Cosa? Ma domani ne discuterete tutta la puntata, perché farà il giro d'Europa. Ma Vendola? Mm-hmm. Una cosa legata, un annuncio che fa? Che fa? Che si sposa, ha fissato la data del matrimonio? Ma che mi volete zanzarare a me? Sono un mestiere! Ha fissato la data del matrimonio? Vabbè, c'è uno scoop domani sul Pubblico, questa è la realtà. Ciao Luca, ciao. La zanzara. Il grande ritorno alla zanzara, la voce l'avete riconosciuta, caro Parenzo, l'hai riconosciuta la voce? Beh, potrebbe essere l'onorevole Mussolini sicuramente. Beh no, potrebbe essere, buonasera, come sta? Buonasera, ma dico, ma voi non avete proprio pietà, cioè vado a finire in una voragine, mi mettete pure la ma che è successa sta cosa della voragine, scusi? Ma ne vogliamo parlare, adesso io ci scherzo, meno male che è successo a me, pensate se succedeva, se passava una carrozzina con un bambino o una persona sulla sedia a rotelle, c'è stata una cosa allucinante, cioè è andata con la macchina allora, dentro una buca, c'era un tombino, c'era un tombino irregolare a filo strada, filo marciapiede, vicino alla scuola di mio figlio, io vado a prendere mio figlio a scuola, poi lo metto in macchina, salgo in macchina e sento uno smottamento, apro lo sportello, meno male che ho fermato immediatamente la macchina, stavo per scendere, ho guardato per terra e vedo il vuoto, cioè io stavo infilandomi dentro totalmente in questa, cioè è crollato il tombino perché sotto c'era una specie di tunnel, è possibile, dico Marti, che un tombino possa franare così naturalmente? Io credo invece che la responsabilità debba essere di tutti, è troppo facile, il sindaco certamente è responsabile alla fine di tutto. Tant'è che stamattina mi ha chiamato. Mentre la responsabilità poi dei municipi è dei presidenti. Quello è chiaro. No, e vabbè, sì, ma è così. Però noi ci dobbiamo. Io ho chiamato i vigili, ho detto pronto. Dico, sono l'onorevole. Sono Alessandra Mussolini. Non lo dico mai, onorevole. Dico, sono Alessandra Mussolini e si è aperta una voragine di Gabriele Pallanzani vicino alla scuola. Tra l'altro c'era un autobus, si aprivano le porte e ci cadeva la gente sopra. Quindi sono stata un'ora e mezza, perché ero io. Se avesse chiamato un'altra persona, io forse non... Senta, l'ha vista l'imitazione della Minetti a quelli del calcio? No, ma la voglio vedere. Beh, come no? Ho letto alcune sue dichiarazioni che addirittura Andrea... Perché non mi è piaciuta questa cosa, diciamo, a priori. E poi sempre ma che a priori? Ormai è un attacco a Berlusconi. Ma che attacco a Berlusconi? Un attacco a Berlusconi, ma basta con queste cose. Ma perché non fanno l'imitazione di Lusi? L'imitazione di Lusi è piuttosto complicata a fare l'imitazione di Lusi, diciamo che la Minetti sempre una donna si deve fare perché sta più ridere, perché ma anche la vedrò, è un protagonista, le faccio sentire qualcosa della Minetti fra poco, qualcosa dell'imitazione della Minetti, perché inizia col solito Love of My Life, che era il modo in cui lei chiamava Berlusconi, sentiamo subito. Stavamo parlando appunto dell'impegno in regione, no? Love of My Life. Love of my life. Ma chi è? Ciao. Senti, allora stasera ti ma porto... Ma sei al telefono? Stasera ti porto un'amica che ti piacerà di brutto. Sì, sì, è, viene vestita, ti lo dico, viene vestita. Come viene vestita te? Anche dove? Se, nel senso, stasera... sei vestita così te? Ora sei vestita così? Sì. Allora va bene, ti porto questa amica, è toppissima, è vestita da cameriera vintage, arriva. Ma come che è? Ma dove? Però, onorevole Mussolini... Beh, vabbè, lo vedrò, però così mi fa tristezza, non mi fa ridere. Ma perché? Verità, io vi devo dire quello che penso. Ma no, ma è una bella cosa. Poi la posso anche vedere, vedrò. Ma si farà due risate. Mi fa ridere, perché la comicità deve far ridere, non deve fare tristezza. Per ora mi ha fatto tristezza. E perché? Che tristezza c'è? Non so, mi fa tristezza, che devo fare? Sono caduta dentro il tombino, sentire questo mi fa tristezza. Ma lei ha conosciuto il Batman? Sì, è. Er Batman Fiorito, quello del sindaco di Anagni. No, che è stato sindaco di Anagni, eh? No, no, il Batman non l'ho, io metto Batman là il film, no, non l'ho conosciuto. Non l'ha conosciuto, ma perché non viene cacciato dal partito in due secondi? Perché ma l'hanno cacciato. No, no, ma che hanno cacciato, ancora non l'hanno cacciato. No? Sì, ci sono i probiviri adesso. Le no, vabbè, ma i probiviri è un passaggio obbligato, perché non è che uno comunque l'hanno, è stato sospeso, l'hanno mandato via. L'hanno mandato via, dai. Ma oggi no, si auto in Parlamento, scusate. Oggi io vi dico il retroscena nostro, sì, tragico. Ci dico retroscena. Non parlavamo d'altro, e cioè di quanto fosse grave una situazione di questo tipo. Ho capito. La Polverini poi ha e quello l'hanno mandato via, ma quello è, ha detto Taormina che non si dimetterà mai dal consiglio regionale, da consigliere regionale. Dica, lo dica lei, se ne deve andare dal consiglio regionale del Lazio. Vabbè, ma è chiaro che se ne deve andare una persona quando è accertato il fatto, se ne deve andare dal consiglio regionale del Lazio, ma non è che lo deve dire Taormina. No, d'accordo. Taormina dice che non se ne deve andare. No, perché è il suo difensore. Il suo lavoro. È il suo difensore. La politica è un'altra cosa. Comunque, le consiglio di guardare la limitazione della Minetti, di farsi due risate e di non dire che è una cosa contro Berlusconi. Non è che c'è tutto contro Berlusconi adesso. Ma è chiaro. La Cabello contro Berlusconi, su quelli che è il calcio, non è come Mussolini, su. Ma dirai, quella è sottile la cosa. Ma che so, di sinistra, la Cabello è di sinistra. La Cabello non di sinistra. Non è neanche tanto sottile. Voglio vedere se mi farà ridere o no. Poi io devo dire, sempre contro le donne, è sempre molto facile. Gli uomini ne fanno talmente tante della mattina di corruzione, di queste cose, e nessuno limita. Ma perché non vi limita nessuno? Ma adesso perché lei è fissato con gli uomini, con le donne? Siete inimitabili, perché la donna fa sempre colore e più così. Scusi, ma se quella c'ha le labbra tutte rifatte e il seno rifatto, mica è colpa mia. Ma se voi vi tirate le sopracciglia, che siete ridicoli. Voi vi fate le sopracciglia con le pinzette, vi ho visto. Beh, no, ma io non l'ho mai fatta le sopracciglia. Io che ne so. Ma io non l'ho mai fatto. Secondo me una pinzettata ogni mattina alla fida. Ma io non l'ho fatta. Vi depilate, vi prendete il rasoio, tutte queste cosce lisce. Ma io non mi sono mai depilato in vita mia, non è un Mussolini. Ma facciamo un'imitazione di quando vi pinzettate dalla mattina alla sera. Ma scusi, ma Mussolini, ma di che parla? Tu ti sei mai depilato? Ecco. Ma voi vi depilate, ma perché voi non, voi uomini non vi depilate? Io non mi sono mai depilato. Vedete i ragazzi con le, con le sopracciglia che mi sembrano Ava Gardner. Beh, ma qualcuno lo farà. Ma no, fanno, beh, ma, capito, ma questo che c'entra? Comunque, alcune allora vogliamo parlare anche di voi dovete Berlusconi. Essere imitati. Vogliamo parlare di Berlusconi? Vogliamo parlare dei capelli tinti? Dei capelli di Berlusconi? Di quei vogliamo parlare. Di quanto ha speso Renzi per la sua campagna elettorale, che ancora non si sa. Vabbè, si saprà dopo. Perché molti esponenti del PDL, comprese le donne, dicono che Renzi è bravissimo, che ha le nostre idee? Cioè, la De Girolamo lo dice. Io non sento nessuno. La De Girolamo, per esempio, dice, Nunzia De Girolamo, che addirittura è meglio Renzi di Gasparri di La Russa. Ma Nunzia De Girolamo ha partorito e ha gli ormoni, non c'entra niente, questo è un altro fatto. Ma che c'entrano gli ormoni, scusi? C'entrano, le donne dopo hanno una botta ormonale che sragionano. Ma non no! È così. Sì, è capitato anche a me. Scusi, vedevo tutto bello, ma non era così. Cioè, vedeva bello anche Cicchitto, praticamente. Cioè, tutti. Dopo durante l'allenamento vedi tutto bello. Poi dopo passa e c'è la nuda la cruda. Però mi dica la realtà, anche per lei Renzi è meglio di La Russa e di Gasparri. No, per carità. età, ha un movimento strano nella bouche, nella bocca, non me ne parlate. Di che? Assolutamente. Di Renzi. Ma guarda che il rottamatore è da rottamare. Perché? Guardate che no, perché Renzi hanno detto che faremo la trasparenza noi, poi io. Ma il movimento della bocca non ho capito, a parte la trasparenza, i soldi. C'è una cosa strana che devo ancora capire. Cioè? Comunque, ma che ne so, è un movimento che dice una cosa ma con la bocca ne fa un'altra, cioè il movimento della bocca non è sincrono con la parola, il movimento delle labbra, sì. Poi lo dovrò studiare è meglio. Finto, diciamo, allora, è finto. No, non è in sincrono. Non è in sincrono. No, allora, quello che voglio dire, lui sì. Che parla tanto di trasparenza, sono nuovo, sì. Facciamo e diciamo, a parte che ha detto che spenderà una milionata, 1 million euro per fare questa campagna. E vabbè, ma che le fa schifo la ricchezza? Berlusconi ha speso un sacco di soldi. Ma dove li prende? No. Voglio sapere quanto spende, perché non lo ha messo? Vabbè, ma li certificherà questi soldi. C'è un camper? Sì. Ma io lo devo vedere. Ha detto il suo collaboratore, no, questa è la cosa, adesso vediamo. Quando mai? Sul sito non c'è. C'è un camper dove sì. Tu spingi sì. E puoi mettere 30-50 euro e li ridà. Sì. Cioè, voglio dire, quindi non è vero. Ma niente. Anche la Zanicchi ha detto che tutte le donne del PDL sono innamorate di Berlusconi. Sono di Renzi. Ormoni, non sono gli ormoni travisano. Ma anche la Zanicchi? È chiaro. Pure lei. Ma non lo trova vagamente un bell'uomo? Ma no, ecco, non è vagamente. No, a me no. A lei non ispira nulla. Non ispira nulla. Come no, mai? Non è nuovo, poi utilizza strumenti vecchi. Quindi è da rottamare, Renzi. Vabbè, è da rottamare, su. Ma vuole fare le stesse cose? Vuole fare le stesse cose che voleva fare Berlusconi 20 anni fa e che non è riuscito a fare? Tasse? Ma sì, ma facesse il sindaco di Firenze. Ma su, se adesso i cittadini hanno un problema, dove lo vanno ad acchiappare con questo camper? Su, che è un camper neanche elettrico, consuma pure. E invece la Marcegaglia incoronata da Casini, come la vede la signora Marcegaglia? Casini in questo momento è in uno stato confusionale, veramente il nome la dice lunga. Addirittura. E lui sta acchiappando quello che può, ma in questo momento è una confusione totale, non è che c'è da dire, quindi Casini tenta l'intentabile. Vabbè, torniamo tra un secondo. Marcegaglia è un po' duretta. È un po' duretta, che vuol dire? Nel senso che non cede facilmente. Ma che ma da che punto di vista, scusi? Politico. Ah, politico. Mm. Ah. Ma un bell'uomo di sinistra chi è? Uno che le piace a sinistra, un bell'uomo. Renzi ha detto che non è bello, un bell'uomo a sinistra. No, non è. Ma a me non mi interessano proprio gli uomini. Ma come non le interessano gli uomini? Non mi dica. No, io ormai sono. Allora, già l'abbiamo fatto questo. Cioè, è passato, ormai è in situazione. Io sono oltre, a me non interessa, mi annoia. A lei il sesso non interessa più. A me interessa semplicemente. Voi alla fine buttate sempre su questa cosa. Allora, io non ho detto niente, io ho detto chi le piace. A me non mi piace nessuno. Nessuno. Politicamente tu puoi dire. No, politicamente no. Ma fisicamente non c'è uno di sinistra che dice: ma se questo qua è un bell'uomo, un bel ragazzo. No, niente. Boccia perché il marito. Perché io ho i paraocchi. Il marito della De Girolamo, Boccia. No, Boccia no. Boccia. Stanno tranquilli, hanno avuto una figlia, stanno tranquilli. Ma lei è un po' influenzata dal marito quando parla di Renzi, anche se poi lui in realtà vota per Bersani. Ma con chi? Il marito di chi? Della De Girolamo, il signor Boccia. Ma perché? Che ne so, magari è influenzato un po', magari passa al PD, lei. Ma sai chi potrebbe piacere all'onorevole Mussolini? Ma lei è stata, ha scelto, si è innamorata, giustamente, va bene così, ma non è che poi però uno per forza deve essere attratto da quelli dall'altra parte. Barbato le potrebbe piacere. No, per carità, cioè, una cosa che... No, perché sentite, io poi devo andare a cena. Sì. Qua non si può nominare Renzi e subito dopo Barbato, perché questo è una violenza. Un attimo, le devo fare un'ultima domanda dopo. No, anzi, la faccio adesso. La Carfagna. No, subito, la Carfagna potrebbe divorziare, eh? Ecco. Allora vi do una bella notizia? Sì. Carina, prima una bella notizia buona. Buona, sì. Io ci ho parlato con la Carfagna, abbiamo ripreso i contatti. Vi piace? Beh, questa siete è buona. Siete contenti o no? Questa è buona. Oh, come è stata questa donne? Come è stata questa conversazione? Come è stata questa conversazione? Ho parlato direttamente su un tema, noi dovevamo parlare di una legge, dove Lei anche se n'era occupato, preso e sono andato. Ho detto, senti, no, su questo che ne pensi? Senza dire, allora, no, basta, ma quello che è successo, punto. Siete contenti o no? Vi siete chiarite su qualche cosa? Vi siete chiarite su qualche cosa o no? Niente, che devi chiarire. No, se no è finito. Ma è, è piaciuta questa è contenta del fatto che divorzi o no? Cioè, contenta, insomma. No, contenta assolutamente no. Però fa bene? Fa bene? No, no, sono cose personali e non entro assolutamente. Questo era anche inevitabile? Ma non lo so, che ne so. Che ne so? Vi sto dicendo, Marignetti, sì? Che ho ripreso i contatti. Siete contenti è o no? Finita, è finita la guerra, è finita la guerra Mussolini-Carfagna. Si può annunciare al mondo? Potrebbe ricominciare. Come potrebbe ricominciare? No, no, non mai dire mai. Per ora non c'è. Siete contenti? Comunque è uno scandalo. Ma lo sai perché? Perché dal di fronte talmente tante situazioni gravi che stanno si può passare anche su. Era una cosa che era diventata. Ma l'Inghilterra che se la piglia con noi perché pubblichiamo le tette della Gate, vogliamo dire qualcosa o no? Senti, secondo me è tutto fatto d'arte. Cioè, lei ha fatto fare apposta. Sì, ma certo, prima di tutto, queste cose, è chiaro, sono successe anche in Italia, sì. Succedono ovunque. Quando sei un personaggio pubblico, purtroppo... Ti fotografano, dice, Ti fotografano. Ora che l'Inghilterra, l'Inghilterra se la prenda con noi perché pubblichiamo le foto, giustamente, ognuno pubblica ciò che crede e lei poteva non mettersi... Brava, si è messa, t'hanno pizzicato. Tra l'altro ha anche un bel senino, l'ho visto, carino. E quindi fa tutta pubblicità. Brava, che quella le piace. Se fosse napoletana direi, avete visto? Che bellissimo. Buonasera, buona cena, a presto. Ciao, ciao. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, no le importa mucho, si no prendo sueno, no le importa mucho, si no prendo sueno, no le importa. Caro Parenzo, il collegamento da Roma, è caduta la linea naturalmente, Alberto da Prato, buonasera. Alberto? Pronto, vada, buonasera. vada. Buonasera Cruciani. Volevo intervenire sulla questione della Valle e il Can. Sì. Francamente credo che la gran parte degli ascoltatori, diciamo del pubblico... Intanto c'è un annuncio da fare. Domenica la Minetti sfilerà in costume da bagno per la settimana della moda, per sostenere le realtà del mio paese. Alberto, Volevo dire più Cicchetti, meno Minetti, più Giannino, meno Fiorito. Certo, la Minetti ha delle grazie che altri non hanno, ma per la politica italiana forse sarebbe meglio che ci fossero poi gli interlocutori diversi. Io volevo dire una cosa, probabilmente nessuno ha chiarito qual è il peso all'interno della manifattura italiana, della componentistica realizzata per la Fiat in Italia, qual è il peso della componentistica realizzata per la TOZ in Italia con il lavoro italiano. La TOZ assembla in Italia, quindi dà lavoro a dei dipendenti per produrre le sue scarpe, ma tutto quello che viene assemblato viene costruito all'estero, quindi dare del cosmopolita a degli imprenditori cosmopoliti, a Elcan e Marchionne, quando in Italia vengono realizzati quasi il 70% dei componenti delle auto Fiat, è un'operazione assolutamente di disinformazione ed è chiaramente, come ha detto lei, un'operazione di tipo politico, di cagnara politica. No, un'operazione di cagnara politica, che certe dichiarazioni sono frutto di altri interessi o comunque di giochi di potere, di amicizie, eccetera, eccetera. C'è la questione Montezemolo, insomma, potremmo parlarne a lungo, non è la sede forse, no? Il mito del casettano che prende la valigia e va a vendere le scarpe nel mondo è finito a un pezzo. Della Valle è un finanziere, non è un imprenditore, i soldi li ha fatti fuori. No, ma è anche un imprenditore che c'entra, però... Sicuramente, ma i grandi utili delle sue aziende non vengono di certo alla vendita delle scarpe, di cui tra l'altro io sono fedele cliente e di cui ha la qualità. Però secondo me... sta sbagliando completamente. Va bene, grazie, obiettivo. Grazie. Andiamo a Monza, Attilio. Ciani, buonasera Parenzo. Senta, vado diretto, io mi incazzo ogni volta che Parenzo parla, non ce la faccio. E vabbè, ma, e, è una cosa incredibile, la sua affermazione nel diciamo così condividere le idee della Valle, è chiaro, è palese che lui non ha mai fatto un cazzo nella vita, perché non si può non capire che praticamente se Marchionne vuole andare via dall'Italia, me lo auguro, è semplicemente colpa del sistema Italia, colpa dei sindacati. È così, perché, no, perché i sindacati forse non lo so, anche di quello. Mi faccio parlare, no, sono cruciali, una cosa, ma lei ha mai gestito una persona, un'azienda, un fatturato? Si accorgerebbe che praticamente gestire le persone, i sindacati in Italia aiutano solo i fannulloni, la gente che praticamente ha i medici compiacenti che gli firmano le licenze di malattia e tutto questo. Fa bene Marchionne andarsene, fa benissimo, quindi lei non può affermare che Marchionne praticamente sbaglia solo perché l'ha fatto credere che della Valle ha ragione. Allora, caro sì, mi ricordo, no, neanche scusi, come... poi finisco parlando, non me ne frega nulla, non mi ricordo neanche come si chiama. Ha ragione lui, ha ragione Attilio. Come si chiama? Attilio. Attilio, sì. Allora, Attilio ha perso un'occasione per stare zitto, però ha fatto bene a telefonare. Io prima ho difeso Della Valle dicendo che Della Valle, che è un imprenditore che investe in Italia... Ma che c'entra? Ma non investe solo in Italia, anche all'estero, non dire stupidaggini. Anche all'estero, ma tiene le aziende in Italia. E che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Si va dove, si va dove costa di meno. Oddio, ma chi se ne frega di questa cosa qua? Chi se ne frega? Che è etico, capito? Vabbè, ma è impazzito stasera. È impazzito stasera. Ma di Della Valle, di per sé, non me ne frega nulla. Vado, è impazzito, va bene. Ma che merito? Cosa c'entra il merito in questo caso? Il merito non c'entra nulla. Che ci sono imprenditori che hanno una responsabilità rispetto a quello che fanno. Della Valle è più responsabile di Marchionne, questo vuol dire tu, nei confronti dell'Italia. Benissimo. Ecco la stronzata della serata. Su, in modo più responsabile di Marchionne. Ecco la stronzata della serata. E ha promesso delle cose al governo italiano che non ha mantenuto. Benissimo. Per Fabbrica Italia, capito? Va bene, ecco la stronzata della poi, serata. Se a te invece piace il fatto che uno pigli per il culo il governo italiano, sì, anche questo, sì, anche questo, sì, se sì. Piace questo a me modello, piace anche un imprenditore che si fa i cazzi suoi, figuriamoci un po', mi piace un imprenditore che si fa i cazzi suoi, qual è il problema? Che pensa al bene dell'azienda? Ma anche Della Valle si fa i cazzi suoi, però capisce che c'è un problema di sistema, ma non è che è buono Della Valle, cioè quando dice che vuole condividere una parte degli utili, lo fa perché pensa oddio, che con sta cosa degli utili, ma chi se ne frega? Perché ti sei fissato su sta cosa degli utili? Non capite un cazzo, cioè, Attilio, ma è una roba talmente banale. Attilio, risponda. Posso? Sì, dica. Mi scusi, vedi, questo qui è un'altra dimostrazione. Parenzo che praticamente proclama la parità, il poter parlare, ma so, va carica la voce come fa tutto il radical chic. Vabbè, con questo non c'entra niente adesso, Attilio, cioè, su. Cosa, ma è il modo antipatico che ha praticamente di dire tutti uguali, liberisti, e poi lui prima non essere liberista, perché quando uno gli va contro praticamente lo insulta, gli dice pure buffone, non accetta che gli venga detto all'incontrario. Vabbè. E questa è la grossa differenza. Comunque, se ricordi, Parenzo, impari a gestire le persone, conoscerà l'azienda e conoscerà bene i sindacati italiani. Grazie. Che fanno veramente schifo. Grazie. Leonardo da Roma, buonasera. Cruciani. Vada. Buonasera. Io sono un accigliato depilato, a parte questo sono molto adirato per la cosa che ha detto prima il signore Cicchetti, politico che avete parlato. Cicchetti. Lo vorrei mandare a fare il mio lavoro, 900 euro al mese, in un ospedale, e poi vediamo chi ci rimette realmente, oppure a fare il politico, insomma, la differenza penso che ci Leonardo sia. Ha detto che lui con la politica ci ha rimesso una parte del suo patrimonio, questo ha detto. Io ci rimetto altro che parte del patrimonio. Ho capito, Leonardo, adesso cosa c'entra che lei prende 900 euro al mese? C'entra che lo stipendio che prendono gran parte degli italiani e ci vivono tranquillamente, anzi ci vivono malissimo. Un attimo. Sì. Pronto? Mimmo? Sì? Cruciani, come stai? Oh, grande giornalista, bene, tu? Eccoci, c'è anche Parenzo come al solito, eh? Salutalo, un abbraccione anche per lui. No, hai fatto una cosa... Scusami Mimmo, vogliamo chiarire definitivamente una cosa. Questo video che gira, il manifesto ventriloquo, che con questa immagine di questa ragazza... che legge un tuo comunicato, un comunicato del Movimento di Responsabilità Nazionale, è vero, è autentico o no? Ma non so di che cosa stai parlando perché non lo conosco questo. Vabbè, te lo faccio sentire, va, te lo faccio sentire, aspetta lì, stai fermo. L'MRN sarà presente in tutte le province siciliane alle prossime elezioni con una sua lista indipendente formata da professionisti e stimate persone appartenenti alla società civile, tutte rigorosamente provenienti dal territorio. Lo afferma in una nota Domenico Scilipoti, segretario nazionale del Movimento di Responsabilità Nazionale. Allora? Bellissima questa musica. Vabbè, questo è il tuo inno, eh. Devo dire per andare di corpo. Devo dire che non è male. Bellissima. italiana. Uno degli inni più belli, devo dire, fino adesso creati dalla politica italiana. Viene questo venduto anche delle farmacie. No, adesso non fare adesso così, è bello, Parenzo, è bello, punto. Allora, Mimmo, è vero questo video o no? Viene venduto nelle farmacie. Che sei perfettamente sincero. Cioè no, sincero. Ma io ci credo che è fatto bene questo inno, molto meglio di tutti gli altri inni di partito, te lo dico. Dimmi una cosa, è vero o no? È vero o no quel video con quella voce un po' da ventriloquo? Io lo sento per la prima volta ora, me l'hai fatto sentire tu, ma che io ho preparato, abbiamo depositato il simbolo in Sicilia e speriamo di poter concorrere anche in questa competizione elettorale per dare il nostro giusto contributo. Vabbè, questo adesso non mi fare il comizio qua, il proclama, il punto no, è quale comizio? Questo video che circola su internet e anche sull'home page di qualche giornale è tuo autentico oppure un falso? No, io non, la prima volta che l'ho ascoltato stasera e me l'hai fatto ascoltare tu. Ma dai, su, Mimmo, però non essere... Il contenuto di quello che dicono è vero, cioè dire che io sarò presente in competizione... quello in tutta la Sicilia. Però il video, la prima volta l'ho sentito proprio stasera, me l'hai fatto sentire. Cioè, l'avete fatto voi o no questo video, scusa? No, non l'abbiamo fatto noi. Non l'avete fatto voi, cioè un falso. Non hai coraggio di ammettere che hai fatto questa roba, questa nuova operazione lassativa. Non capisco perché non hai coraggio di dire ho fatto questa roba, ho preso questa ragazza, questa modella, le ho fatto leggere questa minchiata. Ma non è di vero nemmeno, perché non è una persona reale, cioè è una figura. E però poi perché non lo ammetta, c'è il simbolo del suo partito. Io dovrei dire. Questa è la prima volta l'ho sentito Parenzo stasera, me l'hai fatto sentire tu. Poi tutti gli altri che sono abituati a dire delle cose non giuste, delle scorrettezze o soltanto creare confusione e delegittimare continuano a farlo. Scusa, molti siti, tra cui uno che si chiama Cado in piedi, eccetera, titolano l'incredibile spot di Scilipoti per le elezioni in Sicilia. Ma ognuno può dire quello che vuole, tanto ormai siamo abituati in Italia a sentire scemenze e falsità. Questa è un'altra falsità messa insieme alle altre. Cioè, tu non hai mai creato il Movimento di Responsabilità Nazionale, non ha mai creato un video di questo tipo? No. Questa è la prima volta che lo sento, l'ho sentito stasera, come vi stavo dicendo, non avrei nessuna difficoltà. No, denuncia qualcuno. Se fosse stato diverso da quello che io sto sostenendo. Denuncia qualcuno, stanno utilizzando il tuo simbolo. Ora lo guarderò questo video e conseguenzialmente prenderò le dovute precauzioni o prenderò i dovuti provvedimenti. Scusa, hai capito Parenzo? Dunque sembra essere un falso questa cosa, eh? Sembra essere ma un ti falso. Credo, si è reso conto della cosa e ha preso le distanze, ovvio, ma è sua. Distanze chi? Da se stesso, dici? Certo, sì, quando si rende conto che la fa grossa, prende le distanze da se stesso, è evidente. Mimmo, vuoi rispondere? Ma io non ho niente da rispondere, a una persona che parla sempre cercando di delegittimare, non facendo un servizio serio per informare la gente, ma soltanto per creare confusione. Io non ho niente da rispondere e non ho nemmeno voglia di discutere. Cioè, vabbè. Lascio cuocere nel proprio brodo, cioè dire lui cuocerà a fuoco lento all'interno del proprio brodo e conseguenzialmente poi tirerà fuori i frutti malefici che nel corso di questi anni mica è un demone attraverso il linguaggio parlato della radio. Ma comunque pare che siano stati quelli di Movimento Responsabilità Nazionale Mediterraneo, eh? Esistono Movimento di Responsabilità Nazionale Mediterraneo? Io non so di che cosa stai parlando, il Movimento di Responsabilità Nazionale ne esiste uno, il segretario nazionale sono io, ci sono persone, ragazzi in gamba, molto seri, che chi parla di questi ragazzi prima dovrebbe capire di chi sta parlando e dovrebbe rispettarli, perché ognuno all'interno di una... Ma l'hanno fatta loro, sì o no? Di un movimento. No, non c'entrano niente loro completamente. Nessuno. Vabbè, comunque la notizia è questa. Mi dispiace perché qualcuno si è passato il tempo, però ci sono tanti burloni e tanti ragazzacci, ma nel senso nobile della parola vuol dire che hanno pensato di fare questo scherzo. Non è nostro, lo diciamo con grande tranquillità. Oh, ecco, non è nostro. Prenderemo provvedimenti. Un solo cuore, un'unica idea. La Sicilia ha bisogno di essere rilanciata e di ritrovare l'antico splendore che le compete, offuscato finora da troppi anni di malgoverno e da gestioni approssimative della cosa pubblica. capo ufficio stampa onorevole Domenico Scilipoti. Per chi lo vorrà. Bene, 800 24 00 24, ma Domenico Scilipoti ci ha testé detto che questo video non è opera del Movimento di Responsabilità Nazionale. C'è chi si era esercitato, caro Parenzo, per tutto il pomeriggio, sì, per dire una cosa terribile, terrificante, questa voce, questa ragazza che assomiglia a una protagonista di una, no, di una sitcom americana. Ma io ti eccetera. Do una notizia, guarda. Qual è la notizia che mi vuoi dare? Dunque, ho appena ricevuto una chiamata dal Ministero della Salute, sì, che dicono che hanno reso mutuabile il fatto che uno si può scaricare questo filmato. Dunque, c'è un sacco di persone che sono di stitichezza. E quindi ringraziano il Movimento di Scilipoti, perché tra la canzone e il video... No, la canzone non è male. No, la canzone viene anche questa è mutuabile, perché anche questa ma può no, essere dai, utilizzata... Su, Per quando ci sono dei problemi di intestino, molti ne soffrono, sì, uno se lo può sentire nelle cuffiette e, sì, e risolve senza bisogno ma di fare Mimmo altro. È ancora in linea, Mimmo? Sì, sto ascoltando. Vabbè. Vabbè. Grazie, Mimmo. Questa sera... Il problema sai qual è? Che molte volte dicendo queste scemenze non solo... lui cercherebbe di offendere me, ma cerca di offendere tutte le persone che sono all'interno del Movimento di Responsabilità Nazionale. Ecco, ma voi con chi vi presentate in Sicilia, Mimmo? Che credono in un, sì, progetto veramente alternativo nell'interesse, sì, in questo caso dei siciliani, ma degli italiani. Senti, ma con chi state in Sicilia, Mimmo? Con chi state in Sicilia, da soli? Da sola. Noi stiamo nell'area di centro-est. Ho capito, ma con chi appoggiate? Musumeci? Domani avremo una riunione. Una riunione? Vabbè, ma la nostra direzione prenderà una posizione, ma sicuramente siamo... Chi è che fa parte della direzione? Se vuoi nome e cognome te li posso dire, per esempio il dottor Natale D'Amico, ne fa, sì, parte, Salvatore Proto, ne fa parte... Oh, bravissimo Salvatore! Gaetano... il dottor Fazio, ce ne sono tante persone. La direzione dell'MRM. Fazio, chi? Antonio Fazio, quello della Banca d'Italia. La direzione regionale. Direzione regionale, certo. Riunirà e stabilirà, ma non ci muoveremo. Non ci muoveremo dal centro-destra, avanti. Senti, Mimmo, però tu nei giorni scorsi hai detto una cosa clamorosa. In onda, in diretta, questo incontro di cervelli. Quando qualcuno cerca di delegittimare così, sì, gratuitamente, non fa altro che offendere anche tante altre persone che sono, sì, all'interno dell'MRN. Sì. E un giornalista dovrebbe avere il buon senso e l'intelligenza, sì, anche di non offendere le persone che stanno... Vabbè, ma si fa ironia e si scherza, no, su, dai, Mimmo. Ironia, sono... scusa, ironia è una cosa, dire poi delle sciocchezze ripetutamente poi potrebbe anche... Oggi Miccichè, tra l'altro, Miccichè, che è uno dei candidati alla presidenza della Regione Sicilia, ha detto che non intitolerebbe l'aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino perché ricordano una cosa negativa che è la mafia, bisognerebbe intitolarlo invece ad Archimede, ad altri personaggi. Tu sei d'accordo con Miccichè, Mimmo? Ma io dico che i siciliani, più che discutere su questi argomenti, sul titolo o sul nome di un... Ho capito, ma tu ha fatto bene o ha fatto male, Miccichè? Ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Sicuramente io, come candidato alla presidenza della Regione Sicilia... Ah, sei candidato? No, dico, nel caso in cui fossi stato candidato al posto di Miccichè, avrei parlato di altro. E non di queste cose qua. Senti, però nei giorni scorsi hai detto una cosa clamorosa, come al solito, come nelle tue corde. Hai detto perché? Che se passasse il matrimonio gay ci sarebbe l'estinzione del genere umano. No, ecco, no, ci ripoti su. Ho utilizzato... No, si potrebbe rischiare l'estinzione degli esseri umani, cioè dire la specie. Vabbè, questo come fa? Ma perché continui con questa cosa qua? Continui. Ma vedi, ma ognuno deve avere il coraggio. Ma io non capisco che c'è di strano quando uno sostiene le proprie idee, li sostiene. Ma perché sei così disturbato? Ma anche se tutti diventassero preti, allora, se tutti perché diventassero preti. Disturbato? Perché? Perché sei disturbato proprio? Perché? Perché sono disturbato, scusa, non capisco. Perché sei così disturbato? Perché parli di estinzione del genere umano, Mimmo, dai, su. Io, scusa, non sono disturbato per niente. Disturbati forse sono gli altri che cercano di attaccarmi in ogni momento quando faccio dichiarazione che loro non condividono. Ma cioè, estinzione detto, del genere umano. Io ho detto che la famiglia deve essere composta, e per me è composta da un uomo e donna, ognuno è libero di fare quello che vuole, e poi mi sono permesso di dire che se dovesse passare la tesi che tutti vanno chi? Verso il se tutto il genere umano, se tutti gli uomini andassero verso il matrimonio gay, si potrebbe rischiare l'estinzione del genere umano. Ma scusa, ma perché tutti gli uomini dovrebbero andare verso il matrimonio gay? Scusami, ma ragiona un attimo, perché scusa, tutti quanti dovrebbero. Io ragiono, io ho fatto un'ipotesi e ho fatto una riflessione ad alta voce, poi sono convinto che questo non succederà. Ho capito, ma perché uno lo deve dire? Ma ho fatto un'ipotesi, ma scusa, ma perché altri non dicono delle cose diverse dalle mie? Cioè dire, chi sta dall'altra parte della barricata non sostiene delle cose opposte a quelle che sostengo io? No, io per niente. Io mi permetto di dire che dice delle sciocchezze, ognuno è libero, no, di però scusa, questa è una vuole. Questa scusa, cosa capito, dell'estinzione non del genere. Ho capito, scusa, ma non ho capito perché tu o altri tu ti scandalizzi o altri si scandalizzano quando uno ha il coraggio di dire e di fare delle. No, ma io non è che mi scandalizzano, dico che parlare di estinzione del genere umano è una stronzata, Mimmo, è una stronzata. Se tutti diventassero gay, sì, si rischia l'estinzione dell'essere umano. Cioè, se tutti diventassero gay, chi è che dovrebbe produrre? Ma ho capito, ma non è. Ma è un timore, vero? È un timore. Tu hai. Rispondi, ma io ho fatto un'ipotesi. No, tu hai detto se si introduce il matrimonio gay. Leggi il comunicato, perché tu sei una persona seria a differenza dell'altro giornalista, quel certo Parenzio. Tu sei una persona seria e leggi il comunicato e vedi che io ho scritto non ho dato la certezza. Ma nel caso in cui dovesse succedere, potrebbe succedere. Ma ho capito, ma già il fatto che tu lo dici significa comunque. Ma lo dico perché così. Ma lo leghi ai matrimoni gay, lo leghi alla questione dei matrimoni gay, che non c'entra nulla. Non è che se si introducono i matrimoni gay tutti diventano omosessuali, che c'è questo pericolo, scusa, di contagio. Ma non ho detto questo. Scusa, perché mi fai dire delle cose? Vabbè, ma è come se lo dicessi, no? Se tu hai voglia di attaccarmi, non ma non ti sto attaccando, Mimmo. Non penso che sei gay. Dico perché solo così si potrebbe giustificare questo attacco. Vabbè, se fossi gay, quale sarebbe il problema? Io so perfettamente che non è così. No, dico, potremmo giustificare o si potrebbe giustificare l'attacco se uno è gay. Perché? Che io dica delle cose dell'altro mondo. Io non offendo i gay, anzi, li rispetto, ma come no? Li voglio bene. Dico soltanto che ho una posizione sulla famiglia che è diversa da. D'accordo, ma che c'entra però il matrimonio gay con l'estinzione del genere umano? Io non capisco il passaggio. Uno può essere anche contro il matrimonio gay. Te lo rispiego un'altra volta. Se nel mondo dovessero diventare tutti gay, potremmo rischiare l'estinzione del genere umano. Ma è un'ipotesi impossibile che nel mondo diventi. Ma lascia perdere se è impossibile o possibile. Ma come lascia perdere? Ma scusa, ho fatto un'ipotesi. Quante ipotesi tu fai che sono impossibili? Ma sì, d'accordo, ma se uno fa. Quante ipotesi fai che sono impossibili? Parenzo, questa è un'ipotesi, tant'è vero che è un'ipotesi. Se tu vuoi parlare. Aspetta, Parenzo vuole fare un'ipotesi. No, Parenzo faccio vuole un'ipotesi, siccome lui ha fatto un'ipotesi, faccio un'ipotesi anch'io. Se Scilipoti fosse una persona normale, non direbbe le stronzate che dice. Siccome non è una persona normale, dice quello che dice. Però è un'ipotesi la mia. E quindi, siccome è un'ipotesi, non è poco valutabile, capito? Vabbè, adesso scusa, questa qua. Ma, no, scusami, Guccia, tu pensi che io debba passare questi minuti al telefono cercando di ribattere a Parenzio per fare il cretino al telefono, o che Parenzo possa parlare di cretinate con Parenzio? Dico, se Parenzo dobbiamo parlare con Parenzio o con te di argomenti seri, sì, sono seri, però ognuno ha la sua posizione. Tu mi scusa, puoi quest'estate hai detto che tra l'altro che l'UDC in Sicilia appoggia un sodomita. Adesso questo, francamente, pure questo mi sembra una cosa esagerata. Che cosa? Quest'estate hai detto che l'UDC in Sicilia appoggia un sodomita. Scusami, se la telefonata deve essere questa per cercare di dire, dico, io quello che ho detto lo so e so perfettamente quello che dico. Crocetta è un sodomita? Crocetta è un sodomita? Scusa, io ho detto che l'UDC appoggia Crocetta, sì, che Crocetta ha una posizione sulla famiglia che è diversa dalla mia. No, hai parlato anche di sodomia. Hai parlato anche di sodomia. Mi devi fare finire di parlare, perché se parli sempre tu non riesco a spiegarmi. Allora, io che cosa ho detto? Siccome l'UDC, cioè, in una posizione sulla famiglia, e sino ad oggi, cioè quando parlavo un mese fa, io ero convinto che l'UDC sulla posizione della famiglia aveva una posizione chiara e invece centralizzava il fatto che abbia scelto come candidato della, a Presidente della Regione Sicilia una persona che ha un concetto diverso di famiglia. Ma poi hai parlato di sodomia, ho detto questo di pratiche sodomitiche, strumentalizzare o far diventare gli argomenti seri e ridicoli. Io ho il coraggio di dire che la famiglia è composta da uomo e donna e la difenderò sino alla morte. Questo non significa che o voglia sminuire gli altri o voglia dire a coloro che appartengono a un altro pensiero che siano meno o più bravi di me. Ognuno è libero di fare quello che voglio, ma ho il coraggio di sostenere hai detto che Crocetta pratica la sodomia. E donna, e la porterò questa battaglia avanti, siccome nella vita hai detto che Crocetta pratica la sodomia. Oggi non faccio più il medico perché faccio il parlamentare, perché due attività non li posso esercitare. Hai detto che vive in una condizione condannata dalla Chiesa. Ho fatto una mia riflessione ad alta voce, l'ho detto. Hai detto che vive in una condizione condannata dalla Chiesa. Mi dispiace che la volete sempre buttare in bagarre per cercare di delegittimare, vedete? Ma non è delegittimarti, hai detto che vive in una condizione condannata dalla Chiesa. Sono tanti in Italia che la pensano, ma solo che dovrebbero avere la forza e il coraggio di dirle, di uscire a petto in fuori, perché gli altri che la pensano diversamente da me pensano di poter dire tutto e sono liberi, sono intelligente quando lo dicono. Quando c'è qualcuno invece che dice l'incontrario, per esempio sulla famiglia, dice che la famiglia tradizionale è la vera famiglia da uomo e donna, passa qualcuno che è ridicolo. Allora io ho il coraggio di dirlo, di sostenerlo e di portarlo avanti, e dico pure che i partiti che dicono di essere cattolici e cristiani, che devono fare? Devono sostenere la battaglia di dire che la famiglia è costituita da uomo e donna. E Crocetta vive in una condizione di sodomia. Questo è un problema di Crocetta, a me non interessa. Ma l'hai detto tu, la discussione è un problema suo. Vabbè. Perciò a me non interessa, io non faccio né il giudice. Ma l'hai detto tu, Mimmo. L'ha detto, questa è una riflessione che ha fatto il giornalista, e non l'ho detto io. Stai smentendo. Ha detto il giornalista. Stai smentendo, benissimo. Perciò tu sai che la differenza fra quello che dice il giornalista e quello che dici tu è una cosa ben diversa. Uno ti fa una domanda, e se nella domanda ci sono delle parole, non significa che l'hai detto tu. Che l'hai detto tu. Il giornalista, benissimo. Ed io ho ascoltato. Va bene, è una riflessione. Va bene, ma hai chiarito, bastava chiarire questo. Bastava chiarire, però dico. Chiarire va bene, ma siccome io so che tu sei persona corretta, giornalista serio, io penso che quando tu fai determinate li fai in buona fede. E allora, siccome so che tu sei in buona fede, io ho cercato di chiarire ancora meglio. Però io sta cosa dell'estinzione ancora non l'ho capita. La che facevi in continuazione per dire. Ma se tutti diventano se tutti diventano preti, per esempio, Mimmo, ma non è la stessa cosa? Uno per assurdo potrebbe ragionare così: se tutti diventano preti, c'è l'estinzione del genere umano. È lo stesso ragionamento. Perché non fai lo stesso ragionamento? Che cosa dice? È che abbiamo detto una cosa dell'altro mondo? Abbiamo fatto un'ipotesi: nel caso in cui tutti diventassero preti, ci potrebbe essere l'estensione del genere umano. E allora che cosa è successo? Che abbiamo fatto una bestemmia? Vabbè, ti abbraccio. Cioè, il prete si dovrebbe offendere per quello che sto dicendo? Vabbè, ma l'estinzione del genere umano, dai, Mimmo, ma su. Ma cosa sto dicendo? Ho fatto una riflessione ad alta voce. Allora, se tutti diventassero preti, potremmo rischiare l'estinzione del genere umano. Ora che fa? Il prete si offende perché ho detto questa cosa? Ma no, ma tu l'hai detto in senso. Allora, scusami, Cruciani, di che cosa stiamo parlando? Vabbè. Io ho fatto una riflessione ad alta voce. Ma non è una riflessione, è una minchiata. La mia posizione sulla famiglia la ribadisco. Vabbè, l'abbiamo ribadita. E i partiti che dicono di essere cattolici e cristiani non Mimmo, sei circondato di froci, ricordati questo, dentro il tuo, dove abiti tu, a sinistra, a destra, sopra e sotto, ci stanno i froci, ci stanno allora gli omosessuali. Ma io sono accettala. Ma quando tu parli di froci, io li rispetto. Anch'io li rispetto. Bene, hanno una visione diversa dalla mia, che cosa diversa dalla tua? E vabbè. Capisci che tu devi criticare per forza la persona che la pensa diversamente. Ma se dici che c'è l'estinzione del genere umano, sono persone per bene, delle persone meravigliose, solo che hanno una posizione, un concetto sulla famiglia diverso dalla mia, ma ho il coraggio di dirlo. No, dici che vivono, dici che vivono nel peccato. E voi non fate altro che screditare. Non è vero, tu dici che vivono nel peccato. Tu dici che vivono nel peccato. Ma che dici? Sì, l'hai detto più volte. Più volte l'hai detto. Più volte l'hai detto. Ma che dici? Come no? Vivono nel peccato. Parli di sodomia. Parli di sodomia. Parli di sodomia. Parli di sodomia. Vergognati, parli di sodomia. Tu porti sempre questa battaglia a fare confusione. Vivono nel peccato per la religione cattolica. Ma chi l'ha detto? Se sono cattolici, se la vedono loro. Paolo Dalla Spezia, buonasera. Paolo Dalla Spezia. Buonasera, volevo intervenire in merito, come ho già detto, alla telefonata di ieri del collega avvocato onorevole Taormina. Da avvocato sinceramente sono basito da come il collega si è presentato in una radio ascoltata da milioni di radio. In che senso, scusi? Nel senso che noi abbiamo un codice deontologico che forse l'avvocato Taormina ha letto. Ma quello è l'avvocato Taormina, mica è un avvocato normale, è il professore Carlo Taormina. Ma il problema è che noi abbiamo un codice deontologico. Ma quale codice deontologico? Quello è il professore Carlo Taormina, è un avvocato. Ma lei che avvocato è? Ma lei che avvocato è? Ma chi la conosce? Io sarò anche un avvocato di provincia, ma tengo ancora all'onorabilità. Avvocato Taormina, lei lo conosce Paolo Dalla Spezia? Ma quale? Ma non ho mai visto in televisione battagliare contro nessuno, ma sarà un cretino, anzi un criminale, lo sento da come parla. Paolo. Sì, mi dica. No, voglio dire, che quale codice deontologico, scusa? Da dove chiama questo? Dalla Spezia, professore. Ma non ha mai fatto neanche una commissione d'inchiesta, la quale La Spezia è morta, è morta. Scusi Paolo, non ho capito perché il codice deontologico. Un processo alla Spezia è importantissimo, ha fatto uno dei processi più importanti, adesso chiama questo avvocato. Ma quale avvocato questo? Paolo, scusi un attimo, avvocato, si fermi un attimo. Non ho capito che c'entra il codice deontologico. Sono io l'avvocato, io. Paolo. Se l'avvocato è il professore, mi cancello domani mattina dall'albo. Ma la buttiamo fuori, ma non l'ha mai visto. Confido sinceramente in un intervento da parte del Consiglio dell'Ordine di Affari. Ma quale Consiglio dell'Ordine? Su, dai. Perché non si può, un collega non può fare certe affermazioni, usare certi termini in una radio. Avvocato Taormina? Ma quale? Ma lo denuncio io subito, sto già mandando i RAS, tutti a fare dei prelievi, delle attenzioni enormi a casa sua. Guarda, dice delle cose gravissime, deve vergognare di quello che dice. Grazie avvocato, ci sentiamo domani 18:30, Giulio da Milano, Francesco da Milano, Massimo d'Ancona, ci sentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.